Parli bene di lei, ti sto ad ascoltare. Gentile con tutti, altruista, affettuosa e donna da amare. Sai dire bene di lei e provo a capirti. Amiche da sempre, non hai che da dire parole importanti. Lo so, è tutto vero, non sai proprio niente di me. Gentile e affettuosa, lo so, di questo mai niente con me. Lei vive da sola, se sai dimmi almeno dove la voglio portare con me. Ho tanto bisogno di lei. Ribellerò più se esce con gli altri, a cena, a ballare, in montagna o al mare, saprò accontentarmi. Quando era sola con me, senza amici accanto, pensava a studiare le leggi del male ed io ad aspettare. Ma vive da sola e non vuol saperne di me. Ha mille amori con sé. Il suo vero mondo qual è? Non ha più padroni, può scegliere tutto e di più di quando con me viveva senza libertà.